La Cicogna Nera. Ed eccoci qui, sono passati 40 secondi dopo le 21 e siamo tornati. Come ogni giovedì apriamo la fascia serale musicale di Radio Onda Rossa e lo facciamo attraverso le musiche del globo. In realtà le abbiamo già sentite un pochino prima, ero già qui in studio e abbiamo assaporato un po' di canzoni tangheire, di atmosfere argentine, oppure recentemente abbiamo ascoltato i Balkan Beatbox, che li colleghiamo subito al primo brano di questa sera perché uno dei suoi componenti, il Tamir Muscat è il suo nome ed è un israeliano di origini rom, ha prodotto il primo progetto che ci ascoltiamo questa sera, e lo facciamo continuando sulla scia della scorsa puntata, ossia quella dei migliori, delle migliori musiche, dei migliori album che sono stati prodotti lo scorso anno. Naturalmente una selezione completamente soggettiva, completamente a discrezione della Cicogna. Allora, si chiamano The Alive Family, sono una componente familiare, un ensemble di 7 persone e, come vi ho già ripetuto, li ha prodotti Tamir Muscat. در غریبی ناله کردم هیچ کس بد آدم نرسید در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد بیا ساقی که من مردم کفن از برگ تاکم کن با آبی دیدم غسلم کن در این میخانه خاکم Zebon Farah, Shamu Sahara, Zebon Farah. Beh, come sentite, un piglio veramente balcanico da ballo, un piglio rom, però loro hanno invece una un'etnia un po' differente, arrivano dal Tagikistan addirittura e poi sono diventati famosi in in programmi televisivi in Israele, a Gerusalemme e così. E poi grazie al rom Tamir Muscat, che in questo caso, in questo album e in questa canzone che si chiamava Zebo e alle manopoline elettroniche, li ha fatti un po' sdoganare nel canale delle musiche del mondo e sono arrivate anche alla Cicogna Nera. Sempre dal territorio palestino-israeliano arrivano anche di rimpetto gli altri musicisti. L'altro progetto che non vi abbiamo mai passato, anche questo del 2011, si chiama Yemen Blues e l'ideatore di questo progetto è Ravid Kahalani. Alibaba, Alibaba. جبال الجار ذا في ظهر من بحر الملح لا من ضيقوني في وداد العالم لا من ضيقوني في وداد العالم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Mai Hibati, il titolo di questa canzone di Ravid Kahalani con i suoi Yemen Blues. Non importa da dove vieni, ci dice Ravid, la vostra lingua è la mia lingua, non importa a quale Dio si sta pregando, perché la melodia viene sempre dal cuore. Queste le parole dell'israelo-palestinese Ravid Kahalani, ma anche lui di altra estrazione etnica, o almeno sempre di origine Jewish, per così dire, però arriva da una famiglia yemenita che poi si è trasferita a Gerusalemme o lì, nei dintorni. Comunque è una musica davvero da ascoltare, una delle più interessanti direzioni delle musiche del mondo dello scorso anno, proprio questo suo gruppo in cui mescola le liturgie yemenite tradizionali. Lui da piccolo parte proprio da lì, dal canto liturgico delle canzoni yemenite e delle canzoni ebraiche. C'è del blues sahariano qui dentro, ci sono delle percussioni latine, insomma c'è un bel melting pot in questo album che porta lo stesso nome del gruppo, Yemen Blues, e che vede una formazione abbastanza eterogenea, almeno per quanto riguarda i paesi. Ci dovrebbero essere componenti finlandesi, molti componenti che arrivano dagli Stati Uniti e naturalmente lui, israelo-yemenita, Ravid. Lui addirittura inserisce, leggo qui su internet, alcune parole, alcune frasi di preghiera all'interno delle sue composizioni originali, che canta, pensate, in una ventina di lingue diverse. La tradizione ebrea è anche quella che ci collega al prossimo progetto, al prossimo album, che secondo me è degno di nota come uscita dello scorso anno, perché anche lei è di derivazione Jewish, si chiama Sista Kay ed è figlia di un padre berbero sefardita e di una madre ebrea ashkenazita, dunque ha le due confluenze, diciamo così, musicali migliori, quello sefardita che ha dato origine a questa musica medievale, dunque tutto, di tutta l'Andalusia, della zona berbera, e poi invece la tradizione ashkenazita che poi è sfociato nella quella grande musica che è il klezmer. Sista Kay comunque è la cantante del gruppo europeo tra i migliori, che fanno una pacianca tra le migliori musiche del mondo. Sono i Bacha Clan, nuovo album pieno di spirito, pieno di politica, di antirazzismo. Radio Bubbles, l'abbiamo già passato in più di un'occasione, questa sera ci ascoltiamo Biens, Biens. Thank you. Je me sens heureux. Bien sûr que je suis heureux à la madrague, heureusement. Ah, mais je suis bien, moi. Je suis bien, bien, bien, bien, bien, comme je veux. Quand tu seras mort, qu'est-ce que tu voudrais qu'on mette à ta santé? Une bouteille de vin rouge. Laquelle? C'est bien mascara. Elettronica, dub, chanson francese, melodie di derivazione klezmer, di derivazione sefardita, strumenti che arrivano dall'Africa come il guimbri o dall'Armenia come il suo oboe più famoso, quello in legno di albicocco, il duduk. Tutto questo concorre nella fusione musicale dei Bacha Clan, probabilmente il gruppo europeo che ci sta più dentro nella fusione dei diversi linguaggi musicali. E arrivano da Marsiglia, loro hanno pubblicato diversi album, dunque sono abbastanza prolifici. Rimaniamo in Europa per un altro album dello scorso anno, Nord Europa, Belgio, non così a nord poi, e si chiamano Balaxy Orchestra, probabilmente ve l'ho passato un po' di tempo fa, ora non ricordo bene, comunque hanno un piglio dal vivo veramente strabordante, straripante, non a caso questo album, l'ultimo album che hanno registrato, che si chiama Wilkie May Trip, è proprio un'esecuzione dal vivo, loro sanno solo fare questo, sanno suonare in pubblico, questa è Drunk in Bulgaria. 21 e 24, questi erano i quattro dischi. Abbiamo continuato la selezione dei progetti che, a seconda della cicogna, sono tra i più rappresentativi dello scorso anno, e quella che abbiamo ascoltato era Drunk in Bulgaria, la ballata di questo disco, se così lo possiamo chiamare, la ballata, l'ultima canzone che chiude Wilkie May Trip, di questa orchestra che guarda ad est per la sua ispirazione musicale. Ora continuiamo in questa poco più di mezz'ora che ci rimane e andiamo ad ascoltare tutte nuove musiche che sono uscite anche questo nello scorso anno, dunque magari a voi piacciono di più queste. Comunque iniziamo subito dalla Turchia, che è sicuramente Istanbul, in particolare l'incontro dell'Occidente con l'Oriente, dunque dovrebbe essere un terreno estremamente fertile per le nuove musiche del mondo. Così lo è stato un pochino di anni fa, forse proprio negli ultimi 2-3 anni sto facendo un po' di fatica a trovare nuovi progetti di grande interesse musicale, però è uscito l'album di una grande, di un'icona della Turchia e di Istanbul in particolare, Sezen Aksu, che ha venduto più di 20 milioni di album in circa 30 anni di attività. Esce Optum 2011, aveva pubblicato un altro album nel 2009, un altro nel 2008, dunque è veramente molto prolifica questa donna, che così è diventata un po' un'icona, anche perché negli anni 70 è stata la prima a decidere di registrare ed eseguire dal vivo il proprio materiale, dunque a rompere in un certo senso il tabù, affrontando tutte le questioni personali, soprattutto politiche, e avendo anche il coraggio di parlare e di cantare, soprattutto in lingua curda, che era naturalmente ufficialmente bandita. Optum è questo album che secondo me proprio non ci sta, le canzoni sono poco ascoltabili, non so quanto ci sia un'operazione di mercato di questo album pubblicato per la World Village, ma ad un primo e anche ad un secondo ascolto si fa fatica a trovare qualche canzone bella. Comunque quella che vi propongo, forse una delle poche canzoni ascoltabili, si chiama A Felek Yordun Beni. E scendiamo in pista tutti quanti con questa canzone che chiude il progetto, l'album Optium di Sezen Aksu. Altra voce di donna, prossimo CD esce a settembre. Lei invece è l'esponente, diciamo così, più internazionale della scena culturale della lingua catalana che sopravvive ancora oggi nel borgo marinaro di Alghero in Sardegna. 10 anni sono quelli della sua carriera, che non sono poi né pochi né tanto, e per l'occasione lei ha voluto raccogliere i suoi pezzi migliori e probabilmente, anzi no, probabilmente sicuramente, perché ce lo dice lei stessa, le registrazioni migliori che ha eseguito nei diversi concerti, da Roma a Utrecht, dal festival Leggiamo di Portaferrada in Catalogna, a Barcellona, Jazz Festival di Ottawa, insomma una carriera live ben eterogenea in diversi paesi per Franca Maso, che ha deciso di pubblicare questo album. Si chiama semplicemente 10 Anis, i suoi 10 anni. Ce l'ascoltiamo con Amargan Tango. Ayúdame a acercar la suceta al amor y el perfume de la vida. Escolta las palabras del maestral. Dime son las horas del techo. Que vaya cercando los meus días. Al cap gira, gira como una bardufa. Davant del sol que deixa la tarde. Yo vorrei renacer a tu. Vull alçar el meu cap fins a la porta del cel, on la meva veu pugui cridar si encara m'estimes. Lluna, no me deixis, sóc tua germana en la nit i en el dolor. Tenim ànimes plenes de nius, tu de la suceta de la mar, el perfum de la vida, escolta les paraules del maestral. Quella di Franca Maso, che ha voluto celebrare, ricordiamo, i suoi 10 anni di attività con questo album che raccoglie le sue registrazioni migliori, sia dal termine, sia nel senso della sua interpretazione, sia nel senso proprio della registrazione fatta in modo migliore, e dalla cultura catalana interpretata in Italia da Frank Amaso ci spostiamo al nord della Spagna, alla cultura galiziana, invece al suo folk, perché andiamo ad ascoltarci un album che si chiama A Foronda dos Cervos. Dovrebbe essere dell'anno scorso, anche se in questo momento sto guardando alcune informazioni su internet e forse è una formazione del 2010, insomma non ne sono sicuro. Comunque io non li avevo mai sentiti, e sono un quartetto composto da Susana De Lorenzo alla voce harmonium, da Bernardo Martinez alla batteria, ai clarinetti, al flauto, da Xoan Pinon alla chitarra acustica ed elettrica e Oscar Fernandez alla ghironda. Dunque, folk galiziano per questo quartetto che prende il nome di Doa e che ci ascoltiamo con Este Meius Hoyos. Vi ricordo che siete all'ascolto delle sonorità popolari contemporanee della Cicognonera. Questo era un gruppo di musica galiziana che risponde al nome dei Doa, e la canzone che ci siamo ascoltati si chiama Estes Meus Hoyos, musica che ricorda anche forse da vicino quella sefardita che sta un po' più a sud della Spagna, no? E andiamo avanti con altre musiche dello scorso anno. Questo è un progetto davvero da citare, e a cura di tre nomi molto importanti, uno è Arnaldo Antunes, l'altro è Edgar Scandurra, e tutti e due brasiliani, e il terzo componente di questo trio creato all'occasione è il maliano Tumani di Abate. E questo trio insomma è un incontro tra il Brasile e il Mali e rappresenta proprio rappresenta, intanto squilla il telefono ma di qua non rispondiamo perché siamo in diretta, e dicevo, questo progetto rappresenta un po' il naturale viaggio, la naturale continuazione degli schiavi africani che tanti ritmi hanno portato in Sud America, soprattutto da queste zone dell'Africa, quella dell'Africa occidentale. Molti ritmi, ricordiamo, i maggiori ritmi del samba sono stati portati dall'Africa angolana. In questo caso invece la melodia è quella giocata dal Mali, una delle più rappresentative regioni del mondo che hanno contribuito alla nascita del blues e del jazz nordamericano. Tumani Diabaté che corre alla formazione di queste melodie, di queste canzoni con la sua cora, un'arpa a 21 corde, davvero molto molto bella al suono ma anche esteticamente. Dunque, Mali e San Paolo, Brasile e Bamako probabilmente, lo sto cercando ma non si trova scritto in che città è stato registrato in Mali. Comunque, l'incontro di questi due mondi avviene attraverso A Curva da Cintura, il nome di questo progetto che dovrebbe significare la curva della vita. A terra traz, a terra leve, a terra pesa e fica perto de você. A terra pé, a terra pedra, a terra céu, da tela terra e fica perto de você. A terra some além do monte, toda fome do horizonte estende a terra onde está você. A serra segue além da fonte, toda sede do horizonte estende a ponte terra até você. Terra virgem, terra velha, o barro, grama, lama, relva, e fica perto de você. A terra grande, chãos, a terra berço, pão e guerra, e fica perto de você. Terra some além do monte, toda fome do horizonte estende a terra onde está você. A serra segue além da fonte, toda sede do horizonte estende a ponte terra até você. Sede do horizonte estende a ponte terra até você. A terra carrega e descarrega, rega, rega, rega a terra. A terra carrega e descarrega, rega, rega, rega a terra. Terra carrega e descarrega, rega, rega, rega a terra. vez carrega, rega, rega, rega. A terra carrega, dice Arnaldo Antunes con questa canzone Grau de Caos, che non mi cimento in una traduzione, ma che sicuramente è una delle migliori di questo progetto, ricordo, A Curva da Cintura. E trasferiamoci proprio nell'Africa occidentale, dove rimaniamo per quest'ultimo quarto d'ora, e loro non li conosco, anzi si chiamano Calaban Koura, che, se non vado errato, ho letto da qualche parte poco tempo fa che dovrebbe essere tipo un distretto di Bamako, e leggo in questo momento, è comunque in francese quindi non è riesco a tradurvi molto. Comunque questo gruppo dovrebbe aver preso piede all'incirca nel dicembre del 2008 da quelle parti, e leggo che c'è uno strumento all'interno che si chiama Longoni. Passiamo dalla cora Longoni, che è una cora piccolina e più una chitarrina, ecco, un chitarrino molto piccolo a quattro corde, che si chiama Ngoni, prettamente di tradizione maliana. Ai Gabani con Quentin Duyardin è il titolo di questo album che andiamo ad ascoltarci con Wakobi. Sin la moda. Kobe, che ci siamo ascoltati alle 21.50, Calabon Koura, che confermo è un quartiere popolare di Bamako, da dove arriva questo chitarrista cantante a capo di questo gruppo che si chiama Khalil Sidi Haidara, se la pronuncia è questa naturalmente. Chiudiamo con il Burkina Faso, dunque ci spostiamo di poco per un paio di gruppi. Il primo che vi passiamo ha suonato pochissimo tempo fa anche all'Angelo Mai qui a Roma, non so se probabilmente sono stati prodotti dall'italiana Materiali Sonori, ma questo non ce ne può fregare di meno, diciamo. Si chiamano Yacouba Dembélé e Jelly Khan, anzi probabilmente uno dei due del Burkina Faso, l'altro arriva dalla Costa d'Avorio. Comunque quella musicale e la tradizione dei griot, dei cantastori di queste parti. L'album si chiama Savari, la canzone è Nairema. Siramule la nairemo. causato un po' di confusione perché Yacouba Dembélé e Djeli Kan non sono due personaggi che fanno parte dello stesso gruppo, ma Yacouba Dembélé è il leader di questo gruppo nato a Bobo Dioulasso in Burkina Faso, che a capo è il leader del gruppo dei Djeli Kan. E in effetti, ripensandoci, Djeli è proprio il termine, la parola usata in francese che ha l'equivalente, no, dei griot. Siamo arrivati in conclusione, ultima canzone, rimaniamo in Burkina Faso per ascoltarci la sua musica degli anni 70, il suo soul mistico degli anni 70. È uscita una compilation che si chiama Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso. Dunque, chiudiamo proprio con questa retrospettiva e lo facciamo attraverso Compaoré Youssouf. Tra poco i microfoni arriveranno nelle notti di Pan, dunque rimanete qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Noi chiudiamo con Damba Calé, ci rivediamo giovedì prossimo.